la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 9 di dicembre sono le 16.34 primi 48 secondi, per oggi siamo in diretta dagli studi di Roma e non di Milano. Vado subito al punto perché la trasmissione di oggi in realtà è un'ideale continuazione di quella di ieri. Ieri abbiamo avuto un sottosegretario all'economia, Enrico Zanetti, che ci ha spiegato perché, numeri alla mano, la ripetizione di un luogo comune e che comunque è convinzione molto forte degli italiani e non solo della politica, degli italiani del lavoro dipendente e pensionati, che su di loro gravi una quota troppo forte di IRPEF rispetto ad autonomi, partite IVA, commercianti, microimprenditori e così via. E abbiamo ieri analizzato i dati, cioè il totale sul 41 milioni e rotti di contribuenti, di dipendenti e pensionati, e le medie di quello che risulta delle imposte IRPEF che pagano. Oggi è un'ideale continuazione perché questa trasmissione è fatta per vedere chi tra voi condivide una campagna. Questa campagna dopo l'hashtag si chiama Siamo Rotti, ed è una campagna che tenta di attirare l'attenzione di una politica, come sempre, molto distratta rispetto a quanto davvero pagano, anzi quanto dovrebbero pagare ulteriormente in più dopo X aumenti del loro peso contributivo. È esattamente un pezzo di quel mondo di cui già vi abbiamo parlato ieri, cioè il mondo dei freelance, dei professionisti, di coloro che sono iscritti alla gestione speciale dell'INPS e così via. Allora, questa campagna Siamo Rotti è una campagna che secondo me dovreste prendere in considerazione di sostenere, anche se magari voi non siete partite IVA, non siete freelancer, siete pensionati, siete lavoratori dipendenti. Come abbiamo detto ieri, prima daremo tutti noi una mano a noi stessi, a prescindere da come abbiamo percepito, da come percepiamo il reddito rispetto al molto che ci chiedono, e il molto che ci chiedono riguarda esattamente tutti. Prima impareremo ad avere azioni di sostegno reciproco e ci daremo l'un con gli altri una mano. Secondo me prima forse otterremo qualche cosa in termini di ascolto dalla politica. Nel frattempo riflettete su questo: il ballo che sui mercati sta imprimendo la Grecia oggi, non solo in Europa ma a tutto il mondo, si somma anche al crollo cinese, ma la Cina aveva avuto settimane di crescita tumultuosa, l'indice di borsa. Quello che succede oggi in Grecia ci deve fare riflettere, perché, come avrete capito dai GR, i mercati iniziano a tremare per la paura, perché la Grecia ha anticipato, Samaras, ha anticipato, il Premier, ha anticipato le elezioni del capo dello Stato a fine dicembre, e se dopo tre volte non si raggiungono i quorum qualificati per l'elezione anticipata del capo dello Stato, bisogna sciogliere le Camere, e i mercati temono l'instabilità della Grecia. Allora, riflettete sul fatto che c'è un'elezione anticipata del capo dello Stato a breve anche in Italia, e con i chiari di luna che ci sono nei rapporti tra forze politiche, fiducia di tutti noi nei confronti della politica per effetto di quello che avviene con vicende come quella romana, eccetera eccetera, non è affatto detto che un eventuale mancato accordo greco che sfocia in elezioni anticipate non possa anticipare anche qua un bel ballo, come per le 22 sessioni andate buca per completare la formazione della Corte Costituzionale. Auguriamoci di no, però quello che succede oggi sui mercati ci dovrebbe fare riflettere tutte le volte che vi ripetono: ma tanto l'Europa non ci ha sanzionato, siamo a posto, siamo formidabilmente in regola, eccetera eccetera. Guardate che i mercati, quando ripartono, si ricordano di chi ha il debito più forte in crescita e chi ha una crescita invece che addirittura in termini congiunturali inferiore a quella della Grecia, e siamo noi. Non voglio dire che sia giusto o sia sbagliato, ma questo può ricapitare proprio in circostanze molto analoghe a quello che oggi si sta riscatenando sulla Grecia. Chiusa parentesi, per presentarci invece la campagna Siamo Rotti, è con noi il presidente di ACTA, forse qualcuno se lo ricorda, comunque ACTA è l'associazione consulente del terziario avanzato. Anna Soru, buon pomeriggio e grazie Presidente di essere con noi. Buon pomeriggio e grazie dell'invito. Allora, in che cosa consiste e perché questa campagna Siamo Rotti? Beh, il perché è presto detto, cioè noi ci aspettavamo che un governo che diceva di guardare al lavoro del futuro, con un Presidente del Consiglio giovane, un governo giovane, che è un Presidente del Consiglio che ha più volte affermato che il posto fisso non esiste più, ci fosse un'attenzione a quello che è il lavoro del futuro, il lavoro dei giovani e il lavoro che sicuramente non ha il posto fisso, quindi al lavoro dei freelance. E queste nostre speranze sono state completamente disattese. Da una parte siamo stati ignorati dal Jobs Act e poi siamo stati ignorati anche dalla legge di stabilità, che anziché prevedere delle agevolazioni anche per noi come era stato annunciato, in realtà prevede delle penalizzazioni, perché l'unica misura che ci riguarda è la sostituzione del regime dei minimi con uno che è meno vantaggioso rispetto a quello precedente. Nel frattempo niente è stato detto sull'aumento dei nostri contributi e, in assenza di ogni intervento, i nostri contributi, che attualmente sono al 27,62%, che sono i più alti contributi, diciamo quelli della pensione sono il 27%, sono i più alti contributi fra tutti i lavoratori, aumenteranno al 29% nel 2015 e poi fino al 33% nel 2019. Ripetiamolo, stiamo parlando di una contribuzione a fini previdenziali che è più alta rispetto a quella del lavoro dipendente, più alta. In tutti i sensi, e che cresce ulteriormente. Io ricordo a chi è in ascolto che ancora a oggi, come sapete, seppur dopo la riforma Fornero, per il lavoro autonomo, le finestre temporali che si innalzano di anno in anno per avere diritto alla prestazione sono diversificati tra lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno in media tra un anno e mezzo in più, a parità diversamente, non so se è chiaro. Allora, siamo già nella condizione in cui questa parte del lavoro autonomo paga di più del lavoro dipendente, avendo forme di riscossione una volta maturato il rapporto previdenziale diverse e sfavorevoli rispetto ai lavoratori dipendenti. Allora, la domanda è: secondo voi in ascolto è giusta questa cosa? Cioè, da che cosa dipende, da quale principio facciamo discendere il fatto che questi tipi di lavoratori, che ricordiamo non hanno le stesse tutele se si ammalano del lavoro dipendente, devono pagare di più già oggi e ancora rispetto a oggi molti punti in più nel prossimo biennio per i contributi previdenziali, quando poi nel beneficio, cioè nella riscossione della rendita, non sono parificati ma sono ulteriormente svantaggiati? Ecco, questa è una domanda da fare. Cioè, qual è il principio della giustizia politica divina per la quale ci accaniamo nei confronti di questi lavoratori? Ecco, io condivido questa campagna, però è possibile mai, Presidente, che non sia venuta un'interlocuzione, una risposta? Ora, gli 80 euro il governo ha spiegato, aveva intenzione Renzi di estenderveli in qualche modo, di estenderceli per chi è sotto la soglia di reddito per cui si applicano i lavoratori dipendenti, poi sappiamo, la ragioneria del tesoro ha detto non si può fare. Detto questo, però, in tutti questi mesi, voi che tipo di risposte avete avuto? Ma in realtà in tanti ci hanno detto che abbiamo ragione, c'è sempre un problema di copertura, quindi la difficoltà è quella di trovare la copertura, però vorrei anche ricordare che l'aumento dei nostri contributi serve a finanziare l'ASPI, a cui noi non abbiamo diritto, quindi questo è un altro elemento di iniquità, cioè noi paghiamo un aumento della contribuzione perché questo aumento è previsto a bilancio per pagare l'assegno di disoccupazione ad altre categorie di lavoratori, perché noi siamo comunque esclusi dall'ASPI. Nella formulazione attuale del Jobs Act, l'estensione dell'ASPI come strumento di sostegno al reddito universale una volta non per tutte, ecco, non vi riguarda, no. Nemmeno nel Jobs Act. No. Domanda per chi ci ascolta: secondo voi è giusto? Vi hanno detto e ripetuto, perché questo viene ripetuto, che nel Jobs Act c'è finalmente, rispetto ad ASPI e mini ASPI della riforma Fornero, che però convivevano ancora per anni col sistema CIG ordinario straordinario in deroga, che questa volta si faceva il balzo verso lo strumento universale, cioè per tutti senza distinzione di sostegno al reddito per chi perde lavoro. Domanda per chi è in ascolto, perché non riguarda invece le persone di cui stiamo parlando e che rappresenta Anna Soru? Qual è il criterio di giustizia per andare avanti in questi termini? Forse Anna Soru il criterio di giustizia è che voi non avete rappresentanza politica tradizionale o sindacale tradizionale. Può essere questo l'argomento? Beh, questa è sicuramente una delle motivazioni, e l'altra motivazione che viene adotta è sempre quella economica. Dal momento che i soldi sono pochi si parte sempre da altre categorie. Cioè, ci si ricorda di noi quando si deve prelevare i soldi, si devono trovare le risorse, mai quando le si deve distribuire, ed è per questo che abbiamo detto siamo rotti. Cioè, non accettiamo più di fare semplicemente da bancomat. La nostra campagna Siamo Rotti continua con il dire fuggiremo dalla gestione separata. Fuggiremo, che cosa vuol dire? Mica potete sottrarvi. Beh, in realtà molti di noi l'hanno già fatto, soprattutto chi aveva un reddito più alto, ha trovato il modo di creare società varie oppure semplicemente di passare alla gestione commerciante, alla gestione artigiana, a seconda delle attività che uno svolge. Se un informatico alla gestione artigiana, se per esempio è un traduttore, un pubblicitario alla gestione commerciante. Era una facoltà che non veniva esercitata da tutti, anche perché se uno ha un reddito molto basso, precedente esistevano dei minimi contributivi nella gestione commerciante ed artigiani e quindi non era conveniente, ma dal momento che la legge di stabilità eliminerà i minimi contributivi per queste gestioni, ci sarà soltanto l'aliquota proporzionale, è evidente che per noi sarà molto più conveniente passare in una di queste gestioni dove attualmente si paga intorno al 23%, si arriverà a regime a pagare il 24%, che è ben diverso da un 33% che è prospettato per noi, sono 9 punti percentuali, quindi è un'enormità, e quindi tutti finiremo per essere dei finti commercianti e dei finti artigiani. Ci domandiamo perché dobbiamo essere costretti a fare questo. Allora, io intanto le leggo, andiamo prima ai 60 secondi di informazione stradale, poi le leggo un po' di sms dei nostri ascoltatori. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a 16:47 per i 32 secondi. Siamo con il presidente di ACTA, l'associazione dei consulenti del terziario avanzato, Anna Soru, che ci ha presentato, ci sta spiegando in cosa consiste questa campagna. Siamo rotti perché chi è iscritto alla gestione speciale INPS, cioè i freelance professionisti, come avete sentito già oggi pagano più dei dipendenti la contribuzione previdenziale ed è in ulteriore crescita fino al 33% nei prossimi due anni, contribuiscono all'ASPI che però non li riguarda, non hanno le tutele sanitarie relative ai lavoratori dipendenti. Domanda: perché? Allora, alcuni nostri ascoltatori dicono, qui alcuni sono anche evidentemente ricadono in questa categoria o ci si immedesimano, perché per esempio Emiliano dice: perché paghiamo di più? Perché secondo lo Stato siamo noi quelli che rubano in quanto evasori, quindi ci tartassano su una presunta evasione. È lo stesso argomento che usa Domenico da Udine: caro Genino, noi siamo considerati evasori e non riusciamo mai a far cambiare idea ai dipendenti e ai pensionati, che non credono assolutamente ai salti mortali che facciamo, dice Domenico. Poi un pensionato che dice: secondo me è venuto il momento che vadano in piazza anche loro, esponendosi a prendere magari qualche manganellata, firmato un pensionato che ne ha piene le scatole. Allora, è solo un ventaglio di opinioni. Sentiamo ancora anche Andrea da Treviso e poi facciamo commentare queste opinioni scelte un po' a caso, sono tanti messaggi al presidente di ACTA Anna Soru. Sentiamo Andrea da Treviso, prego Andrea. Sì, salve a lei, buonasera Giannino. Buonasera. Volevo semplicemente aggiungere questo: io sono un promotore finanziario. A noi, oltre ovviamente a tutto il discorso relativo ai versamenti INPS, dobbiamo aggiungere anche Nasarco, come se non bastasse, che lei sa benissimo con che altri problemi che ci sono sotto, sì. Chiaramente. Ecco, volevo semplicemente segnalare questo perché sembra proprio che la categoria comunque degli agenti rappresentanti sia proprio vessata due volte, non una, due volte. Eh sì, e Nasarco rientra in quel novero, non pochissime a dire la verità, e anche rilevanti, di casse professionali che sono interessate da scandali di malagestio, di sottrazione di risorse, di metodologie di investimento iperazzardate, di interessi degli amministratori che sono al di là dei codici di correttezza e in taluni casi anche del codice penale. E quindi ovviamente le cose si sommano in questo caso. Però, Presidente Soru, allora che fare? Bisogna che diventate più cattivi nelle piazze? Bisogna che adottiate un criterio di maggior trasparenza nei confronti proprio di chi rappresenta i lavoratori dipendenti e pensionati, cioè dei sindacati confederali? Quali di queste cose può servire? E poi come si fa a dargli una mano? Ci chiede qualcuno nella campagna. Allora, partiamo dall'ultima. Noi domani faremo comunque un tweet bombing alle 12 per rilanciare il Siamo Rotti, quindi chi vuole darci una mano può rilanciare i nostri tweet o aggiungerne degli altri. Sull'andare in piazza, cioè, mi sembra che non sia proprio lo strumento giusto per chi è autonomo. Noi non abbiamo lo strumento dello sciopero e andare a manifestare, cioè, se non ci riescono quelli che comunque portano in piazza centinaia e migliaia di persone, noi non potremmo pensare di portarne di più, ma sicuramente di meno, e quindi è chiaro che non è questa la modalità con cui possiamo farci sentire. Sulla questione invece del fatto che siamo evasori, noi pensiamo che bisognerebbe un pochino ribaltare le cose, cioè è vero che nell'ambito del lavoro autonomo c'è anche dell'evasione, perché non iniziare a far valere i regimi di vantaggio, come per esempio il regime dei minimi, solo nei confronti di chi accetta di farsi radiografare dal fisco, quindi da chi accetta metodi tracciabili di pagamenti sia in entrata che in uscita, cioè iniziare a selezionare, perché al momento il regime dei minimi al contrario si può prestare per sfuggire agli studi di settore più che per favorire la trasparenza. Ed è anche stato congegnato un po' per mettere una toppa ad una situazione che è complessivamente insostenibile, nel senso che la pressione fiscale previdenziale per un freelance è altissima, è più alta o analoga nel complesso a quella di un dipendente però senza avere il welfare. Esatto. E intervenire per un regime di minimi con quello attuale, fra l'altro fino a 15.000 euro di fatturato, che è assolutamente ridicolo, significa intervenire a favore o di chi ha una doppia attività, perché poi moltissimi di quelli che sono al regime di minimo hanno una doppia attività, quindi o pensionati o dipendenti che hanno un'attività autonoma, oppure anche intervenire nei confronti di chi ha grosse possibilità di evasione fiscale. Quindi non è secondo noi lo strumento migliore, oltre al fatto che rappresenta un grosso problema, cioè che ha un blocco all'uscita. Col regime attuale, che è 30.000, tanti sono spinti a restare dentro i 30.000. non a crescere, perché a se crescere, lo superano, esatto, di poco hanno uno svantaggio fiscale, e questo ci sembra che sia un assurdo in un paese che fa fatica a crescere. Allora, pensare invece a un regime di vantaggio che alleggerisca il peso fiscale per chi appunto dice: io sono un libro aperto, uso tutti gli, certo, strumenti di tracciabilità, però fatemi pagare un po' di meno. Io trovo tra l'altro anche molto, molto discutibile la pretesa connessa alla riforma del regime dei minimi che sia lo Stato a identificare per quali figure professionali rispetto ad altre sia il tetto a cui si applica, sia la soglia a cui si applica, perché credo che questa illusione che lo Stato decida lui qual è la soglia e il tetto per ogni figura professionale sia veramente l'ultimo residuo di una cultura dirigista da ghost plan. Però questa naturalmente è la mia opinione. Io le leggo altre SMS. C'è chi dice c'è poco da fare, per il momento evade solo che la partita IVA, eccetera eccetera. Questo però, spero che quanto vi ha detto Anna Soro vi abbia un po' convinto. Come vedete, qui c'è un'impostazione che accetta in pieno la trasparenza, in cambio però del fatto di poter beneficiare di diritti, non dico del tutto uguali, ma almeno comparabili, a cominciare da quelli sanitari rispetto ai dipendenti. Dopodiché ci sono altri invece autonomi che chiedono che ripeta bene dove si possono trovare i siti, le mail, eccetera eccetera, perché vogliono partecipare, e quindi questa informazione di servizio. Qual è il vostro sito? vactenrete.it e l'account Twitter è @actenrete. Invece Marco Zara dice: io sono un po' più tosto di quello che dice il Presidente, secondo me lo so che ci rimettiamo tutti, ma se noi iniziamo a organizzare proteste di chiusura per servizi essenziali, colpendo anche un po' i nostri clienti e dichiarandolo, non ce la facciamo. Marco, ma sei proprio sicuro che poi a quel punto il cliente non ti sostituisce? Non lo so, cosa ne pensa Anna Soro? La penso come lei, che è difficile, perché è già un periodo in cui si fa fatica a tenere clienti, se poi facciamo lo sciopero contro i clienti, non so, siamo i primi a pagare noi. Però Anna, se uno vede i sondaggi e le ricostruzioni dei voti ottenuti dal PD nella gestione Renzi, vedi che la percentuale di lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, microimprenditori eccetera, è molto salita nei confronti del tradizionale elettorato storico del PD. Io nel dare appuntamento domani alle 12 per ritwittare tutti quelli che si riconoscono alla campagna di Siamo Rotti, che io condivido, dico che spero che nel PD si rendano conto che ci sono anche questi lavoratori che non chiedono di meglio che poter essere trasparenti fiscalmente, ma in cambio però omologhiamoli un pochino, iniziamo nei diritti, in quello che pagano e ciò che hanno in cambio. Grazie Anna Soro, continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.